Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera e benvenuti a Radio Wombat, ben atterrati direi oggi. Ben atterrati. 60ª puntata. Compagni e compagni. Compagni e compagni. Allora, buon pomeriggio a tutti, do il benvenuto a tutti i presenti, Bricobaldo, Land Lago, Grippo, Lello, il nostro ospite fra poco vi presento e Lavo qui dietro con noi. Evviva, evviva, puntata densa di contenuti come sempre. La 60, partiamo dal 60. Allora, suggerivano questi 60 di collegarlo effettivamente al sistema che regge il tempo. Il sistema decimale. 60 minuti, 60 secondi. Bravissimo. E ci diceva che Carolello che è il primo. Allora, è stato il primo sistema di numerazione. L'antica Eccolo. Meso. Contavano per 6. Contavano per 6. Quindi. Come eredità noi abbiamo, che abbiamo un sistema decimale, noi continuiamo a contare il tempo, a dividerlo per 6. Capito? Hai visto te? Meraviglioso. Io avevo trovato anche un altro 60 che si collega al primo argomento di oggi, che è il 60%. Allora, secondo questo articolo che ho letto da Columbia Reports, il 60% dei coltivatori colombiani non possiedono formalmente la loro terra. Cioè, questo, vediamo se ci confermano questa notizia. Infatti oggi andremo a parlare di Colombia in generale, in particolar modo abbiamo un'intervista a, possiamo chiamarla compagna Carolina, che si occupa di un progetto in Colombia che crea filmografia, diciamo, del documentari partendo dal basso, facendo raccontare proprio da chi vive la realtà della Colombia in particolare, ma non solo. Successivamente di cosa ci occupiamo? Successivamente, come nelle ultime puntate, direi che andremo a vedere che cosa sta succedendo ad Afrin, nel cantone di Afrin, ormai occupato dalle truppe curde. Lo seguiremo sia negli sviluppi in Siria, però anche per quanto riguarda quello che è successo a Firenze e un po' in generale in Italia nello scorso fine settimana, perché abbiamo visto un corteo piuttosto partecipato a Firenze proprio sabato, che ha toccato vari punti nevralgici della città, particolari per questo contesto, e quindi questo, la questione siriana. Ma non solo, andremo anche a fare un excursus su sgomberi e occupazioni sia in Italia, in Toscana, a Firenze e anche al di fuori, perché proprio adesso in Francia sta succedendo qualcosa di molto grave e a noi molto vicino. Esattamente, Notre Dame de Land. Notre Dame de Land. Approfonditamente. Sì. Più tardi. Bene, allora iniziamo con un primo pezzaccio. E poi ci sentiamo fra poco su Radio Wombat. Fuoco alle polveri. Yeah! We'll be right back. exploding phones, killing trolls on a mission. I'm elated to get y'all elevated. God remains God, yeah, and they hate it. All you need, people, pledge allegiance to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah, when the people take a stand. Oh, no hatred. Cinco della mañana. No, fanno così le radio del Sud America. Allora, do il benvenuto a Giampaolo, che è il nostro ospite di oggi, che ci aiuta a parlare appunto della Colombia in generale, in particolar modo di questo progetto, che si intitola Potosine, il cinema comunitario dei barrios in periferia, praticamente. Okay. È la periferia di Bogotà? Di Bogotà, giusto. Ok. Appunto c'è stata questa compagna Carolina qui a Firenze, è stata anche all'occupazione di architettura. No, non c'è arrivata, però è andata via una settimana prima. Ok. E ha raccontato, ci ha riportato appunto il suo progetto, il progetto di loro. Appunto in queste periferie. Cosa fanno? Poi ci daremo parola, voce proprio a lei, però in particolar modo diamo un'introduzione, ecco, a questo lavoro. Bene, allora, praticamente, come tutti e tutte saprete, la forbice sociale in Colombia è altissima, questo genera dei problemi sociali molto forti. Per fare un esempio, ovviamente in Colombia potenzializzato, la differenza che noi vediamo qui in Italia fra nord e sud si vive a Bogotà, tra nord e sud di Bogotà. Ah, però. Sì. Quindi se uno vuole vedere, diciamo, la giungla di Bogotà, prende un autobus, va 20 minuti al sud e trova delle baracche dove le persone non hanno servizi, non hanno luce, non hanno acquedotto e dove la gente patisce la fame. Poi va 20 minuti a nord e ci sono ville di migliaia e migliaia di euro, quindi uno subito capisce che c'è qualcosa che non va. Infatti la Colombia è uno dei paesi, il secondo paese, secondo certi studi, dopo l'Honduras, esatto, che comunque siamo lì, ha una forbice sociale, una differenza di ricchezze molto molto ampia. E quindi questo progetto nasce per rivendicare la dignità di un barrio in periferia che si chiama Ciudad Bolívar. E questo barrio Ciudad Bolívar nasce 30 anni fa con tutta l'immigrazione da parte della campagna per la violenza e la guerra civile colombiana, ormai finita, tra parentesi, almeno ufficialmente, iniziata da ufficialmente 60 anni, ma in realtà da 200, 300, ma anche 400 anni fa. Accidenti. E, è un'autonarrazione, cioè si cerca di dare voce a chi voce non ne ha, tendenzialmente, attraverso questi... Esatto, quindi, diciamo, l'obiettivo principale di questo progetto è ricreare un tessuto sociale che non c'è. Un tessuto sociale che si è perso per la mancanza di identità, per la mancanza di socialità, per la mancanza di spazi veri e propri per fare possibile questa pratica. è più che altro per la violenza, quindi questo progetto ha una grande incidenza politica e paradossalmente, per ragioni di sicurezza, è totalmente permeata dalla politica. Quindi ciò che loro fanno è ciò che i compagni e le compagne fanno con questo progetto in Colombia, a Bogotà, perché poi tra l'altro è un progetto che è coordinato con tantissime altre realtà, non solo colombiane ma anche sudamericane, e piano piano si sta aprendo anche al resto del mondo, e ricreare, come ha detto il compagno, di dare voce a chi non ha voce, ricreare un tessuto sociale attraverso il lavoro collettivo e anche l'autocostruzione. Esatto, è molto interessante, poi sentiremo appunto tra pochissimo questa intervista. Si parte in queste narrazioni anche proprio tipo dal cibo, si parla di un certo tipo di torta, un certo tipo, e ora sentiremo, quindi partire proprio dalle piccole cose. Ecco, esatto, dai dettagli, dall'identità, perché in Colombia, a differenza magari di altre città o anche dell'Europa, non c'è ancora un'identità, non si sa da dove veniamo, da dove proveniamo, quali sono le nostre radici. Perché? Perché è stato totalmente bloccata questa questione da parte dalla conquista dall'inizio e ora dalla classe dirigente. Assolutamente. L'indipendenza è del 1810, quindi insomma piuttosto recente alla fine. Sì, l'indipendenza ufficiale, diciamo, però in realtà ciò che noi diciamo è che l'indipendenza vuol dire essere indipendenti, non cambiare di padroni, e ciò che è successo da noi è che abbiamo cambiato di padroni. Allora andiamo a sentire questa intervista appunto a Carolina, che ci racconta nel dettaglio questo progetto. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità, di questo spazio per raccontare la nostra storia. Io sono parte di questo collettivo che si chiama Sueños Film e che lavora appunto sia a Bolívar, Bogotà, attorno alle tematiche del cinema comunitario e dell'utilizzo degli strumenti video per i lavori di appunto costruzione sociale, di comunità e di spazi per il racconto di se stessi e insomma anche a fianco di tutte le lotte sociali presenti sul territorio. Io volevo chiedere anche a Carolina direttamente che cos'è il cinema comunitario. Noi abbiamo usato anche il cinema in molte e la cinematografia, il video come strumento di lotta anche ambientale, sociale, anche con le mamme no inceneritore, per cui era molto interessante anche vedere che strumenti ci sono anche di cinema comunitario come questo di cui parla Carolina. Carolina, si può descontarnos lo che è il cine comunitario, sia se una metodologia, un metodo o una maniera di affrontare la cinematografia? Bueno, pues digamos que este tema de definir qué es el cine comunitario está todavía en construcción. No porque no, digamos, tengamos claro qué es lo que queremos hacer, sino pues porque sabemos que es un tema que tiene que pues como adaptarse un poco a los contextos de cada espacio, de cada región o de cada país en el que se desarrolla. Appunto lo strumento del cinema comunitario non lo definiscono come una tecnica, un qualcosa di chiuso, di cristallizzato, se non appunto un processo, e quindi un processo in continua costruzione che si va adattando a quelli che sono la situazione contestuale, le necessità e quelle che sono appunto le possibilità. Ecco, però y pues en esa medida el cine comunitario para nosotros es una herramienta que permite visibilizar y contar desde los territorios donde la comunidad sea propia de la realización audiovisual para contar y abrir un espacio de participación de sus necesidades, pero también digamos planteando también aquellas soluciones que nacen desde el territorio pero que pues no son digamos visibilizadas en este caso específico a través, digamos, de los medios de comunicación como oficiales, ¿no? Entonces por eso usamos el cine comunitario como esta herramienta para que sean las mismas comunidades que cuenten sus problemáticas, pero también sus soluciones desde los territorios. E quindi appunto noi dice vediamo questo strumento come uno strumento per visibilizzare appunto le comunità, i problemi, i territori e anche appunto come per uno strumento per costruire spazi di partecipazione dove la comunità stessa si racconti e possa dare visibilità anche alle soluzioni che dal basso sorgono in questi spazi dove appunto che i media tendono a stigmatizzare e quindi a marginalizzare ancora di più e a raccontare solo la storia sbagliata cercando, nascondendo quello che invece è quello che nasce direttamente da questi spazi. Per fare un esempio, prima Carolina mi raccontava di un caso di perdita di territori che sono stati presi alle popolazioni, per cui molte persone si sono ritrovati senza poter coltivare il mais e questo li ha portati a un problema, per esempio a perdere anche delle ricette tradizionali. E loro hanno fatto un film a riguardo. Carolina, antes me contabas de esta historia del mais y de cómo las tierras que se habían quitado a la gente, non le aveva permesso più di coltivare il maíz e desde questo hanno perdido questa ricetta del pastel. Si puedes contarnos más este ejemplo más approfondendo así que la gente pueda entender también cómo se puede utilizar el cine para esto. Sí, pues como decía anteriormente, el cine ha sido una herramienta, en este caso particular, digamos que nos ha permitido ser una herramienta de difusión de una problemática que existe en un punto específico de Colombia, que es La Guajira, que es una comunidad que ha sido desplazada afrodescendiente por la compañía Cerrejón, que esta compañía lo que hizo fue desplazar a un pueblo entero que se llamaba Tabaco y lo reubicó en una ciudad. Ellos eran campesinos y se dedicaban a la siembra del maíz cariaco y a través del maíz cariaco digamos que preparaban un postre que se llama el chiquichiqui y este postre era pues ancestral y tradicional. Entonces a través como de un documental y un ejercicio que hicimos con la comunidad lo que nos permitió hacer el chiquichiqui, el documental, era contar esta problemática a través de la realización de como una excusa contar qué es el chiquichiqui, el contar por qué digamos esta comunidad no había vuelto a preparar esta receta que era tradicional, que era ancestral para ellos, ¿no? Entonces denunciábamos también pues el tema del desplazamiento que habían tenido por causa de esta mina que es en este momento una de las más grandes de Latinoamérica de cielo abierto de explotación de carbón. In questo caso l'utilizzo degli strumenti video nasce come appunto con lo scopo di visualizzare, inizia con lo scopo di visualizzare un problema nella regione della Guajira, nel nord della Colombia, dove una compagnia che si chiama Cerrejón, che fa estrazione del carbone, ha installato una delle più grandi estrazioni minerarie di tutta l'America Latina. E per fare ciò ha diciamo espulso dai loro territori popolazioni ancestrali che si chiamavano Tabaco e che avevano un'antica tradizione nel coltivare appunto il mais e di fare uno specifico dolce che si chiama chiquichiqui e che dopo essere stati espulsi dal loro territorio non potevano più fare, più realizzare perché proprio per l'assenza del luogo, delle loro coltivazioni tradizionali e di tutto questo che era la loro tradizione ancestrale e quindi nasce l'idea di questo documentario che da una parte ha il desiderio di raccontare diciamo questa storia, di denunciare questa storia di sfruttamento, ma lo fa attraverso il racconto della ricetta di questo dolce con un lavoro che dura per molto tempo all'interno della comunità, seguendo la comunità e quindi diciamo facendone parte. Però a differenza anche di un documentario tradizionale dove si va a intervistare le persone, come avete portato le persone della popolazione a interagire con il processo cinematografico? Come è che avevi utilizzato il processo cinematografico per involucrare le persone, non utilizzandola come un documental tradizionale e un'intervista, come avevi fatto a llevarle il linguaggio cinematografico per arrivare a solucionare o a contare questo problema? Sí, pues esta es una larga historia, ¿no? Que data de una lucha de 10 años de esta comunidad de tabaco. Pero nosotros específicamente llegamos porque conocemos un par de compañeras que habían impulsado la receta del chiqui chiqui en un premio que había sobre cocinas tradicionales en Colombia. Y ellas, en este caso, las mujeres de esta comunidad ganan este premio a partir de esto. Entonces, como en asamblea con toda la comunidad, ellos deciden cómo va a utilizar un poco de este premio para realizar un documental. Entonces, lo primero es que nace de un deseo directo de la comunidad, en el que, digamos, en el cual nos invitan a ser parte. Y a partir de ser parte, llegamos a la comunidad, estuvimos primero, pues nuestras compañeras estuvieron en un proceso más directo con ellos de pensar cómo se podría hacer este documental, y luego fue hacer unos ejercicios con la misma comunidad, ejercicios basados como en esta metodología del cine comunitario, que permitió ir construyendo el guión, la manera de contar, cómo queríamos contar este documental, pero ante todo, ¿qué querían ellos contar a través del documental y cómo querían que este documental fuese contado y presentado frente, en este caso, pues frente a las cámaras, ¿no? Entonces, es eso, más un acuerdo que hacemos entre la organización, las comunidades, y en este caso, pues nuestra organización, digamos, que fue como la que estuvo ahí en el proceso más de realización, como tal, de desarrollo de la propuesta. Allora, questa storia nasce da un contatto con questa lotta che aveva già 10 anni alle spalle. Nasce perché attraverso 2 compagne che avevano spinto questa comunità collaborando a partecipare con questa ricetta a un concorso di cucina, di ricette tradizionali. E questa ricetta arriva in fondo, riesce a vincere questo concorso, quindi si trovano con il premio e decidono in maniera assembleare di investire una parte di questi soldi nel realizzare un documentario, e quindi vengono chiamati loro, entrano appunto in questo processo attraverso la partecipazione con la stessa comunità, cioè non un processo di regia tradizionale, ma un processo attraverso il quale, attraverso esercizi, si inizia a costruire appunto la trama, che cosa si vuole raccontare e come lo si vuole fare, revisionando e elaborando tutto durante, diciamo, tutto il documentario, in accordo fra appunto chi faceva parte del collettivo e quindi aiutava in questi strumenti, ma rendendo appunto condividendo totalmente la regia attraverso la partecipazione con la comunità locale. Com'è possibile vedere, per esempio, questi lavori e anche, se è possibile, dire anche dei link o dei posti su internet dove poter vedere questi film? Se hai lugares in internet dove è possibile mirare un trailer o la pellicola sesta de che nos ha scontato? Sí, nosotros, tenemos una página web que es www.ojoalsancocho.org. Estamos en las redes sociales, en YouTube y en todas como ojoalsancocho.org, como Ojo al Sancocho, perdón. Y ahí pueden, digamos, como ver, visualizar parte de lo que hemos hecho. Igual como, pues digamos, un poco para redondear la idea, nosotros nacemos con una intención de mostrar y visibilizar, en este caso, una localidad que estaba segregada y estigmatizada por el tema de la violencia, un tema muy fuerte en Bogotá y, pues, digamos que en Colombia. y queríamos eso, ser un instrumento que permitiera mostrar a través, en este caso, pues del audiovisual, creyendo en esto de los medios audiovisuales como una herramienta de participación y de visibilización. Y a partir de eso pues nacemos y hemos utilizado el cine como es, como una herramienta de expresión, de comunicación y de visibilización del territorio en Ciudad Bolívar. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido en este caso y pues venir en este caso aquí a Italia a contar un poco también del proceso. Hemos estado haciendo una pequeña gira como por Europa, es la tercera vez que estamos aquí alguna persona del colectivo y que estamos hoy pues contándoles un poco esto che facciamo. Allora, i lavori sono visibili in parte nel sito www.ojoalsancocho.org o con la J spagnola e sono anche su Facebook e su YouTube allo stesso nome. E, appunto, il lavoro, tutto il loro collettivo nasce proprio con lo scopo di visibilizzare i problemi e anche le potenzialità di questa località di Ciudad Bolívar, appunto, una delle più vittime non solo della violenza ma anche della stigmatizzazione mediatica, diciamo, attraverso cui si continuava a dividere chi viveva nella parte della città più benestante dalla parte, diciamo, povera. E attraverso questo strumento, appunto, si riesce a dare a visibilizzare ma anche a riuscire ad esprimere meglio la stessa realtà. E attraverso questo processo, insomma, è andato crescendo negli anni fino ad arrivare, appunto, anche alla possibilità di essere qui con noi in Italia, da fare il giro in Europa, avere contatti a livello internazionale, creare anche un festival, no? E io, se posso fare una domanda, vorrei che ci raccontasse, prima di arrivare appunto al festival, come nasce questo lavoro, qual è il contesto, perché è molto importante per, diciamo, noi qua in Italia riuscire a capire qual è quando si parla di conflitto, diciamo che abbiamo una concezione che è abbastanza lontana, quindi se ci può fare un po' il contesto di quando nasce questo lavoro. Entonces, si nos puedes contar un poquito para que todos puedan entender cuál es el contexto en el cual nace el proyecto de Sueños Film y cuál es el contexto de Ciudad Bolívar a la época, ¿no? Un poco para que la gente pueda entender cuáles son los temas de estas luchas de los derechos que se buscaban y de la visibilización. Sí, bueno, pues Sueños Films, al igual que otras organizaciones dentro de la localidad, en este caso de Ciudad Bolívar y pues de muchas partes de Colombia en los años 90, nacen como una manera de defensa de los derechos humanos, porque estábamos viviendo un tema muy fuerte de asesinatos, digamos en este caso específico de jóvenes de la localidad, que simplemente por ser jóvenes y tener tal vez este sentido de libertad, pues finalmente terminaban siendo un poco asesinados y reprimidos pues por algo que se llamaba en su momento la limpieza social, ¿no? Entonces, esto lo que hizo fue pues como abrir este espacio para que la comunidad como que se empoderara y empezara a denunciar lo que estaba pasando. En este caso nosotros usamos pues el tema del audiovisual, pero otras organizaciones empezaron a utilizar también el tema del arte, de la música, de estas otras artes que permitían exigir el derecho y la defensa de los jóvenes en el territorio de Ciudad Bolívar. Allora, il progetto nasce dal contesto, diciamo, della località a fine anni 90, fra fine anni 90 e, diciamo, anni 2005. Dove i problemi erano appunto una grande l'approccio, diciamo, dal punto di vista governativo e non solo ai problemi di sicurezza, e quindi si trattava proprio di difesa dei diritti umani, perché quello che era la logica della limpieza sociale, quindi della pulizia sociale, era quella di andare nei quartieri poveri dove c'erano bande criminali o no, e semplicemente uccidere chi si trovava fuori dopo una certa ora, senza nessuna distinzione, senza nessuna, diciamo, rispetto di qualsiasi diritto basico. Per cui appunto dopo tutte queste morti, stiamo parlando di 2-3 mila morti nella parte degli anni 90 e nella parte successiva fino a 6 mila morti per la questione dei falsos positivo, di cui si parlerà in un'iniziativa del 24 di marzo. E, nasce questa idea, nascono loro come collettivo, ma nascono varie organizzazioni dal basso che usano i vari strumenti, soprattutto loro nel caso del video, ma anche arte e musica, per dare una capacità espressiva a queste località e a fare sì che il racconto della vita di queste località potesse arrivare anche al di fuori, potesse raggiungere e che con essa arrivasse anche la denuncia di quello che era il costo che gli sta venendo, diciamo, fatto pagare per il fatto solo di essere poveri e di abitare in questo quartiere. E quindi quando si parla di visibilizzare, diciamo che stiamo parlando di tematiche abbastanza forti in questo caso. Quindi con il loro progetto hanno usato il cinema comunitario proprio per portare a vedere, no, queste realtà e anche alle lotte del territorio, lotte ambientali che ci sono in città. E io spero che prossimamente possiamo magari organizzare una rassegna di questi film a Firenze da qualche parte, se questo fosse possibile. E nel frattempo comunque volevo augurare buona fortuna a Carolina e al loro festival e al loro progetto. Suerte per tutto lo che stai facendo e speriamo che prossimamente sarà possibile a chi è in Firenze organizzare una proiezione della pellicola. Sì, anch'io ringrazio e volevo ricordare che appunto il 24 è in programma una serata con un altro collettivo che si chiama Entrelazando e che farà, che è appunto sempre colombiano, sempre di Bogotà, e che appunto avete già, chi c'è stato, visto alcune proiezioni. Speriamo di poter unire alcuni lavori di Sueños Film, di dedicare un po' di spazio anche a loro e dedicare magari un po' di attenzione a queste questioni così importanti, che sono così, insomma, per cui la nostra attenzione può fare tanto. Grazie mille. Bueno, gracias a todos y a todas por este espacio, por escucharnos y bueno, pues esperamos. Este año tenemos en nuestro festival, que es el Festival de Cine Alternativo y Comunitario Juan Sancocho, del 6 al 13 de octubre en Bogotá, Colombia, pero pueden participar, digamos, todas las personas, realizadores audiovisuales, que tengan sus películas y quieran mostrarlas. Tenemos una sala de cine autoconstruida que se llama El Potocine, que es un espacio que nos ha permitido también visibilizar este tema del cine comunitario a nivel nacional e internacional. Y pues trabajamos de lunes a viernes con una escuela de formación para niños, jóvenes y adultos. Entonces también si alguna persona está interesada, pues ahí está nuestro sitio web para ampliar la información. Muchas gracias por el espacio y pues por estar aquí en esta tarde noche. E allora dal 6 al 13 di ottobre siamo tutti invitati a Bogotà al Festival Ojo al Sancocho, dove appunto vengono, che sta diventando uno dei festival di cinema comunitario più grandi dell'America Latina, e dove si vengono presentati molti lavori, quindi soprattutto chi fa lavori audiovisuali e vuole presentare, poi sono tutti benvenuti. Loro hanno una sala di un cinema che hanno autocostruito nel loro barrio, è tutto un processo anche questo molto interessante, che gli ha permesso, insomma, di dare visibilità, di organizzare questo festival, di far riconoscere il quartiere, quindi chi vuole andare a vedere. Hanno anche, e grazie anche a questo cinema, hanno montato una scuola di formazione per i ragazzi, i bambini del quartiere, che funziona tutti i giorni, quindi chi fosse interessato è caldamente invitato a Ciudad Bolívar. Ciao. Ciao a tutti. E rieccoci qua su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Sono 17:14 e avete sentito appunto la voce di Carolina, che ringraziamo a posteriori, che non abbiamo qui ora fisicamente, ma abbiamo un altro ospite che è appena arrivato, quindi salutiamo Olmo, ciao. Ciao. Che è la voce che sentivate poco fa all'interno dell'intervista. Sì. E ti do il benvenuto. Si sente poco. Okay. Ti do il benvenuto perché vorrei anche un po' il tuo racconto, visto che tu a Carolina l'hai conosciuta poi in realtà in Colombia proprio. Sì, sono stato proprio con un progetto dell'università a lavorare nel barrio, appunto nella distretto 19 di Bogotà, cioè Ciudad Bolívar, che è un distretto che conta, cioè, per capire un attimo le dimensioni, di censiti diciamo 800.000 persone, di reali abitanti stimati più di 1,5 milioni sicuramente. Quindi quando si parla di distretto, cioè, sono cose un po' grandi. E in particolare questa è la parte proprio finale a sud di Bogotà, la parte più, diciamo, da sempre più povera e più emarginata, che piano piano ha iniziato a crescere anche sulle pendici delle montagne. E quindi appunto i barrios più estremi, diciamo, sono come Potosí, dove lavorano loro, sono proprio al limite fra, più o meno schiacciati fra le cave di estrazione di materiali di costruzione o la discarica. Ah, proprio attaccato quindi a dove vivono. Sì, e da lì sotto si sviluppa, appunto attorno a questo si sviluppa la città, con delle parti che sono anche, diciamo, in funzione di quello che è esistente, per esempio appunto tutti i basureros, come si dicono, comunque recicladores, meglio dire, che lavorano appunto estraendo i materiali ancora utili dalle discariche. Ah, ok, certo. Con tutti ovviamente i problemi sanitari e comunque insomma già tutto quello che può raccontare anche solo il fatto che la città si organizzi così, che la città scarichi anche in questi casi, soprattutto appunto tutto il peso ambientale sulle fasce più povere della popolazione, e appunto che le persone siano costrette a dover vivere e lavorare in questa maniera, nonostante appunto siano desplazados, quindi sono scappati dalla guerra che era lo Stato stesso a condurre, e quindi dovrebbero e avrebbero diritto a avere riparazione di quello che hanno subito, invece si trovano normalmente in queste condizioni. Certo, quindi abbiamo da un lato la questione ambientale, che non si ferma a questa cosa che ci racconti tu, ma poi tutti i problemi delle estrazioni di minerali e di petrolio, che tra l'altro nelle ultime notizie degli ultimi giorni, negli ultimi mesi, di un inquinamento grosso, di una fuoriuscita di petrolio da un vecchio pozzo. Dall'altra la questione politica, appunto, che poi magari accenniamo un po', relativa soprattutto alle campagne, alla fine della, come ci diceva Giampaolo, alla fine formale della guerra, dell'intestina della guerra civile con le FARC in prima linea, che poi ora dopo la pacificazione si sono trasformate peraltro in una forza politica teoricamente, e poi però non ha trovato un riscontro nella popolazione, e hanno mantenuto peraltro il nome FARC, però che è diventato Fuerza Alternativa Rivoluzionaria del Comune. Detto bene? Ottimo. Ok, però tu sei partito appunto direttamente conoscendo Carolina lì nella periferia, nei lavori che sta facendo, anche nella costruzione quindi di questo cinema. Sì, io sono andato a visitare quel lavoro come altri lavori che stanno portando avanti non solo il gruppo di Carolina, ma anche altri gruppi, diciamo, che costruiscono, cercano di lavorare dal basso per migliorare quello che è la situazione, e con i quali collabora per esempio un gruppo di architetti che si chiama Architettura Espandida, con i quali hanno realizzato questo cinema, che lavora con materiali di basso costo come la guadua, cioè il bambù colombiano, e materiali abbastanza, diciamo, a basso impatto, interventi leggeri fatti con la collettività, che, diciamo, hanno un peso molto grande, tant'è che per esempio uno è stato bruciato poco prima che io arrivassi. Ah. Perché sono zone dove la polizia, ci sono le forze paramilitari. Okay. E la polizia, diciamo che appunto erano zone dove c'era una forte presenza anche della guerriglia negli anni passati, diciamo più negli anni 80 in area urbana, e anche proprio per la situazione sociale, quindi la necessità appunto, quindi una partecipazione da parte dei giovani è molto più massiccia all'interno di questi movimenti, e dove quindi l'esercito comunque ha cercato di imporre la sua forza militare, poi diciamo coperta con vari nomi, ma c'è una base militare. Raccontavano questi aneddoti tipo che avevano dipinto tutte le case di bianco e loro l'hanno tolto. E uno dice: come mai, no? Che nelle periferie fanno sempre questi interventi di... E quello che in realtà era, è stato fatto proprio dall'esercito per prendere la mira sui giovani che si spostavano all'interno del quartiere, quindi per quello è stato rimosso dagli abitanti. Quindi c'è un livello di, appunto, come poi si è parlato anche con Carolina, di violenza estremo, giustificato appunto dall'emarginazione totale, da totale non conoscenza da parte degli abitanti della città di quello che accade realmente. Da qui appunto tutto il lavoro audiovisuale e la stessa dinamica che oggi si presenta nelle zone magari più remote, quelle che erano controllate dalle FARC, quindi zone più impervie dove la natura normalmente è più difficile, che loro riuscivano a difendere, ma che nello stesso tempo ha fatto sì che si mantenessero anche sotto un certo profilo, diciamo, ecosistemi conservati che adesso sono nelle mire delle multinazionali, certo, e di tutte le dinamiche della fine degli accordi di pace, il post-accordo, che di fatto in questo momento appunto è stato presentato al mondo, e questo è abbastanza importante da capire, è stato presentato al mondo come un grande passo del governo colombiano. Sì, sì, sì, sì. E sicuramente è una cosa, non l'accordo di pace, ma la pace che il popolo colombiano sente come necessità, e cioè un popolo che è stato costretto dalla violenza a una vita, cioè non alla sopravvivenza. Quindi dopo decenni di guerra la voglia di pace all'interno della popolazione è tanta, ma le dinamiche dell'accordo non sono quelle comunque che vengono raccontate dai media occidentali. In particolare, diciamo che forse la cosa più che ha avuto più visibilità è stato il premio Nobel al premier Santos, che di fatto appunto, come si è parlato con Carolina, della situazione sia a Bolivar e soprattutto quello di cui si è parlato all'interno di questo incontro che c'è stato, un incontro video durante l'occupazione ad architettura che era programmato per la polveriera e si è spostato durante queste iniziative, e lì appunto c'erano le madri dei falsos positivos, e quindi di questi ragazzi uccisi dall'esercito per riscuotere delle taglie sui guerriglieri, e chi aveva messo queste taglie era proprio Santos. Certo, cioè per capire, e ha avuto il Nobel per la pace. Esatto, queste qui sono le persone che abbiamo visto che ultimamente il Nobel per la pace è un evento mediatico molto sfruttato, e quindi appunto bisogna anche capire il contesto, cioè sì, c'è stata una pace, c'è stata una resa delle FARC, anche forse comunque sotto una certa livello di sproporzione militare dovuta al Plan Colombia e all'intervento degli Stati Uniti, che sempre sono stati, diciamo, l'unica ragione di esistenza del governo, di resistenza a livello proprio militare di fronte alle forze rivoluzionarie in altri anni, ma che a un certo punto hanno deciso che quello diventava territorio per il capitalismo, e quindi bisognava, le armi vecchie ne avevano probabilmente vendute abbastanza e hanno iniziato a entrare con risorse consistenti, con armamenti avanzati, mettendo in difficoltà le FARC, e da lì appunto gli accordi di pace e all'insieme di tutte queste altre dinamiche che vanno portato appunto a la resa di fatto delle FARC, che però non hanno mantenuto controllo sul territorio. Certo, quindi c'è stato un vuoto di, non so, di presenza da un certo punto di vista. E appunto questi territori che erano, che hanno grandi risorse soprattutto minerarie e agricole, comunque sono appunto possibile fonte di crescita per multinazionali, sono di fatto in questo momento sotto attacco, non più con le modalità del paramilitarismo, quindi coi massacri che venivano utilizzati per fare scappare la popolazione, quindi appunto le cose più crudeli che si possano pensare e anche no sono state fatte in modo da far scappare la popolazione, che appunto adesso è per un quarto solo a Bogotà e molto nelle città. In queste zone in questo momento non ci sono più questa politica, questa tattica violenta, ma c'è quella del sicariato, perché ora senza la presenza delle FARC non c'è più bisogno di un intervento massiccio a livello militare, ma si va direttamente a colpire i leader che portano avanti le questioni sociali. di vari movimenti. Quindi era una doppia narrazione, da una parte questo progetto appunto da cui siamo partiti di Carolina racconta dal basso quello che succede, che non si sa perché è mistificato tendenzialmente, sia verso l'Occidente o il resto del mondo, che quindi proprio per i colombiani stessi. Dall'altra c'era la narrazione però interna, quindi come diceva Giampaolo prima, autonarrarsi per prendere coscienza di sé, di chi si è. E mi viene in mente che probabilmente, visto che c'è stata questa grande emigrazione, quindi un fuggi dalle campagne, passare dalle campagne, da vivere nelle campagne a una città, sicuramente ti fa perdere una parte di te, e quindi anche lì forse sta, anche lì sta questo lavoro di riscoprire, no? E c'è un altro progetto però che è Intralassando, che abbiamo prima accennato e di cui potremmo però un attimino collegare, perché sicuramente insomma sono sulla stessa onda, no? Da un certo punto di vista. Assolutamente sì. E Intralassando nasce come una piattaforma per l'appunto di informazione libera e indipendente, è un progetto itinerante in tutto il Sud America che raccoglie esperienze di lotta nei territori in tutto Sud America, per l'appunto. Loro hanno lavorato, hanno fatto percorsi con gli indigeni Mapuche in Argentina, con i Nas in Colombia, e con i Zapatisti in Messico. Quindi esattamente quello che loro vogliono fare è innanzitutto dare voce a queste lotte, a queste realtà che purtroppo attraverso i media non c'è, e non solo, ma anche coordinarle e collegarle tra di loro, perché uno degli obiettivi e una delle pratiche loro è quello di fare 6 mesi dai Mapuche e dire e fare e produrre tutto il materiale mediatico, tornare in Colombia e dire ai NASA: oh, in Argentina sta succedendo questo, voi cosa ne pensate? Quindi i NASA in Colombia dicono: oh, wow, che figo questa pratica, e possiamo fare così. Quindi comunque un arricchimento per tutte le lotte, anche in Messico. E poi comunque paradossalmente questa informazione arriva molto più facilmente in Europa che nelle stesse città della Colombia o del Messico o dell'Argentina. C'è una grandissima censura. Tra l'altro, come diceva Olmo, l'ultima proiezione che abbiamo fatto d'architettura, la proiezione di un cortometraggio fatto riguardo alla storia dei falsos positivos negli ultimi 10 anni, una storia molto tragica che tra l'altro fino a un mese fa si pensava che fossero 7.000 i casi, invece hanno fatto uno studio che per l'appunto è uscito un mese fa e i casi sono circa 15.000. Il doppio di queste vittime che sono state assassinate dall'esercito e di cui dopo 10 anni non c'è ancora una risposta da parte dello Stato. Anzi, è una di queste madri che ha partecipato in questo progetto, sono 3 madri, e ha dovuto scappare alla clandestinità per minacce perché non riusciva a vivere tranquillo. Incredibile. Allora, in conclusione, un po', anche se ci sarebbe da dire veramente ore e ore, diamo un po' ai nostri ascoltatori qualche indirizzo dove trovare tutte queste meravigliose notizie e documentari. Quindi, partendo dal progetto di Carolina, ridiamo un attimino i contatti, se ve li ricordate. Allora, i contatti, boh, così, il insomma, nome, sì, il loro collettivo si chiama Sueños Film. Okay. Sueños con la tilde nella N, con l'ondina sopra. Sì, esatto. Oh. E il posto si chiama Potosine, da Potosì e Sine, che è Cine in letto in spagnolo. Ah, ok, certo. E organizzano questo festival che si chiama Ojo al Sancocho, e che ha un sito web abbastanza aggiornato dove si trovano e si può vedere anche questi documentari. Quindi esatto, ci sono sia lì su Vimeo, su YouTube, alcune parti sono state caricate, alcuni appunto okay. Una volta che hanno fatto un po' di giri di presentazioni, normalmente i materiali sono abbastanza aperti. E poi siamo tutti invitati a festival a Bogotà, no, a San Coccio 2018. E Intralassando invece? Intralassando invece c'è la pagina Facebook che si chiama Intralassando con la Z, però comunque con la Polveriera ha iniziato un progetto di proiezioni per l'appunto di questo materiale, con un benefit alla fine per

echoes in my head still. I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? Bentornate e bentornati ai microfoni di Radio Wombat. Avete sentito lo splendido intervento dei compagni colombiani, o quasi, la intervista alla compagna Carolina. E rimaniamo in tema America Latina, perché ci è arrivato un comunicato dell'Assemblea di Non Una di Meno che ci ricorda che è passato circa un mese da due omicidi di una gravità inaudita avvenuti proprio in Sud America. Si parla di Marielle Franco, che è un'attivista per i diritti umani, brasiliana, femminista e lesbica, anticapitalista, come ci hanno spiegato le ragazze e i ragazzi di Non Una di Meno. Comunque è stata assassinata il 14 marzo da dei sicari mentre tornava a casa. Poi appunto è stato anche dimostrato che quei proiettili appartengono, sono in dotazione alla polizia brasiliana, quindi si tratta di fatto di un omicidio politico puro, e non è il solo, perché anche la stessa sorte è toccata a Maria Guadalupe Hernández Flores, detta Cleo. Lei invece è un'attivista per i diritti umani messicana, soprattutto attiva a fianco delle popolazioni indigene, naturalmente femminista, anch'essa lesbica. Lei è scomparsa l'11 marzo ed è stata ritrovata qualche giorno fa alla periferia di Guadalajuato in Messico, senza vita naturalmente e con evidenti segni di tortura. Tutto questo, non uno di meno, naturalmente ne fa una questione, così come è una questione femminista, ma loro non si fermano a questo, perché attraverso il femminismo rivendicano un anticapitalismo e delle politiche a favore delle fasce più discriminate. Quindi mercoledì 11 aprile, a circa un mese dalla scomparsa di Marielle e Maria, invitiamo tutti e tutte ad esporre fuori dalle proprie finestre, nelle proprie case, negli spazi, nei luoghi di lavoro, nei bar e nei locali, una bandiera per ricordarle. Per Marielle e Maria non un minuto di silenzio, ma una vita intera di lotta. Le abbiamo avute l'Assemblea di Non Una di Meno, dei rappresentanti di Non Una di Meno, a Fuoco alle Polveri circa un mese fa. Era appena prima dell'8 marzo, anche appena prima del corteo dell'8 marzo. Lo ritrovate il podcast di Fuoco alle Polveri numero 56. Quindi questi sono gli aggiornamenti dai compagni che si battono a fianco a noi. E con questo forse chiudiamo un po' il capitolo America Latina, almeno per questa puntata. Poi, come sempre, noi torniamo sulle cose. Voliamo in Siria, perché tu non ti sento? Voliamo in Siria, e per l'esattezza nel cantone di Afrin, dove le violenze stanno continuando. Violenze e saccheggi di esercito turco e jihadisti. gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dal compagno Jacopo Bindi, corrispondente di InfoOut e di altre radio compagne. Lui naturalmente non si trova più ad Afrin, in quanto Afrin è sotto l'occupazione dell'esercito turco e delle bande islamiste allo Stato turco, e la situazione è veramente veramente molto difficile e in continua evoluzione. Intanto si può parlare delle violenze, dei saccheggi, della violazione delle proprietà private nella città di Afrin, in tutto il cantone occupato. Possiamo parlare, dobbiamo parlare anche dello spostamento delle persone di fatto deportate. Stanno mettendo in atto un vero genocidio, non solo perché di fatto la sostituzione del cantone, la popolazione del cantone sta per essere sostituita, perché stanno arrivando diverse migliaia di persone dalla regione del Ghouta Est sotto i bombardamenti dell'esercito siriano, dell'esercito di Damasco, ma insomma, che hanno visto insomma una resa proprio pochi giorni fa. Il cantone di Afrin è passato sotto il governo, naturalmente un governo fantoccio, un consiglio fantoccio, che è fondamentalmente costituito da collaborazionisti, che vede alla sua guida fra l'altro Hassan Shandi, che è noto in quanto vicino al servizio segreto turco e molto vicino alla branca siriana del partito di Barzani, cioè del partito curdo iracheno. Dunque, io mi sto rifacendo ad un articolo di InfoOut comparso pochi giorni fa, esattamente il 31 marzo, quindi si parla di notizie che oramai hanno circa una decina di giorni. Abbiamo però il contributo audio di Jacopo, anche esso appunto risalente a circa una decina di giorni fa, in quanto mancano notizie più fresche. Sappiamo benissimo delle difficoltà che hanno nel collegarsi da là. Intanto vi mandiamo questo, poi parleremo anche di quello che è successo a Firenze sabato nel corteo regionale indetto dalla rete toscana per il Kurdistan, dove noi siamo stati, abbiamo tenuto anche una diretta. Trovate tutto sulla pagina Wombat, ricordiamo wombatnoblogs.org o 1359. Con questo, se la regia è pronta, noi spariamo il contributo dal cantone di Afrin occupato dall'esercito turco e dalle bande jihadiste. Ci arrivano le notizie delle violenze che questi stanno commettendo sulla popolazione civile, i saccheggi delle proprietà private, le minacce perché vengano svelate in quali case stessero le persone più coinvolte dalle istituzioni dell'amministrazione autonoma democratica, o le famiglie dei martiri, le famiglie degli Azaish e così via. Inoltre le violenze e anche le persone che cercano di tornare nelle proprie case dopo le settimane di bombardamenti spesso vengono fermate dalle bande islamiste, vengono condotte in altri luoghi, talvolta sconosciuti, talvolta si tratta di altri villaggi, talvolta si tratta addirittura della città di Azaz, dove poi vengono strettamente controllate dall'esercito turco e dalle bande islamiste. Quindi persone che non possono tornare alle proprie abitazioni, ai propri villaggi originari. E sono arrivate notizie proprio ieri del rapimento sistematico di decine di giovani ragazze, che poi vengono tenute prigioniere in case a disposizione delle bande islamiste dell'esercito turco e di cui non si sa la sorte. E queste sono le notizie che ci arrivano da dentro il cantone di Afrin per la popolazione civile. Dall'altro lato, un accordo tra Turchia, Russia e il regime di Damasco farà sì che i combattenti islamisti di al-Nusra, di Harar al-Sham e così via, che in questo momento si trovano a East Ghouta, saranno trasportati ad Afrin. insieme alle loro famiglie, e si tratta di circa 13.400 persone. Già diversi convogli sono arrivati nella città di Afrin, e quindi si sta progredendo anche questo passaggio di pulizia etnica, di cambiamento demografico, di costituzione di un'area omogenea di islamisti e jihadisti che vivono tra Idlib, Afrin e Jarablus. La Turchia inoltre ha creato un consiglio per governare, diciamo, sul cantone di Afrin. Ovviamente si tratta di un consiglio fantoccio costituito da collaborazionisti, da persone che hanno sempre vissuto o in Turchia o da altre parti, ma sempre vicine e collaborazioniste con lo Stato turco e in particolare i servizi segreti turchi. In particolare il portavoce di questo consiglio è Hasan Shandi, noto perché appunto vicino al servizio segreto turco MIT, appartiene al partito di Barzani, la branca siriana del partito di Barzani, e è accusato di aver condotto degli attentati nella città di Afrin contro le istituzioni civili del cantone in passato, e ovviamente di aver causato diverse vittime civili. Questo consiglio sarà poco più che fantoccio, perché le cariche principali saranno in mano a funzionari dello Stato turco, quindi il capo della polizia più altri ruoli chiave. All'interno della polizia saranno integrati almeno 450 jihadisti, ma soprattutto la notizia che rende il tutto più chiaro è che in realtà Afrin farà parte del governatorato turco di Hatay, e quindi sarà governata dal governatore della provincia, del governatorato turco. Nel frattempo invece la popolazione civile di Afrin, che è adesso rifugiata nella regione di Sheba, chiaramente in condizioni molto difficili, perché si tratta di più di 160.000 persone. L'organizzazione dei campi profughi, dell'accoglienza, sta andando avanti, le condizioni stanno lentamente migliorando, ma ancora è principalmente solo la Mezzaluna Rossa curda che provvede con convogli a portare i generi necessari e le cure mediche. E dal campo profughi nella regione di Sheba di Fafen, l'assemblea del popolo ha mandato un messaggio, diciamo, alle Nazioni Unite, chiedendo che intervengano non solo per supportare le loro condizioni, aiutarli nelle loro condizioni difficili, ma proprio per garantirne anche il ritorno alle proprie terre, alle proprie case, in un cantone di Afrin libero. Quindi hanno mandato, dopo un'assemblea, questo messaggio alle Nazioni Unite. E proprio nei campi profughi della regione di Sheba, una delegazione russa si è presentata 2 giorni fa ed è stata cacciata con pietre e bastoni dal popolo di Afrin, perché ovviamente i russi sono tra i primi responsabili di quanto è accaduto e sta accadendo ad Afrin. Nel frattempo, sempre nel quadro di un accordo tra Russia, Turchia e il regime di Damasco, la Russia ha dato il via libera alla Turchia di invadere anche la regione di Sheba, ritirandosi di nuovo dalla sua presenza in questa regione. Per adesso però non c'è un'occupazione né attacchi alla regione da parte dell'esercito turco e delle bande islamiste, e quindi, come se avverrà l'invasione anche di questo pezzo di territorio liberato della Federazione della Siria del Nord non è ancora chiaro. Nel frattempo, all'interno del cantone di Afrin sta continuando la resistenza sotto forma di guerriglia. Le azioni sono state diverse, in particolare ci sono state azioni, diciamo, sulla strada tra Afrin e Gindresse, ci sono state azioni più diciamo, grosse a Mamessur, nel distretto di Bulbil, in cui è stato distrutto un tank dell'esercito turco e anche quattro militari turchi sono stati uccisi. Nel villaggio di Dair Zawan, nella regione di Shera, sono stati una base della divisione Sultan Murand, che sono islamisti armati e addestrati dalla Turchia, è stata attaccata e 30 di loro sono stati uccisi. E poi un'altra azione qualitativa nel villaggio di Duque, nel distretto di Reggio, in cui sono stati uccisi, tra gli altri, due capi islamisti noti, di cui sono state anche diffuse le identità. Uno è Issa Abdullahi, della formazione islamista Al-Shamia, e l'altro è Abu Mikdal, che è delle figure insomma importanti di Harar al-Sham. Quindi la situazione ovviamente è molto difficile, ma la resistenza continua, le perdite per gli occupanti sono molto dure anche in questo periodo, e quindi la resistenza di Afrin continua. Iniziamo ringraziando tantissimo Radio Onda d'Urto da Brescia, che alla quale freghiamo sempre i contributi. D'altronde sono più veloci di noi, che ci dobbiamo fare? Allora, avete sentito da quello che sta succedendo, da una voce presente sul territorio siriano, quindi sicuramente molto più attendibile della nostra, per questo noi preferiamo passarvi contributi veri. Come annunciato, ci apprestiamo a parlare del corteo che si è svolto a Firenze sabato pomeriggio, corteo regionale indetto con la partecipazione della rete del Kurdistan, rete toscana per il Kurdistan, con la partecipazione di tanti spazi sociali fiorentini. Si può nominare il CPA, l'Emerson, il K100, praticamente tutti. C'era la presenza dei vari collettivi studenteschi, con presenza in forze dei vari collettivi studenteschi, ma tante sono le sigle che hanno aderito. Il corteo più o meno è partito verso le 4 e mezzo dal consolato americano sul Lungarno Vespucci, ha sfilato nel centro, non nel centrissimo, nei pressi più o meno sulle sponde dell'Arno, prima da una parte e poi dall'altra, perché l'obiettivo era di andare a toccare i consolati di in primis il consolato russo, Russia che abbiamo visto più che coinvolta nell'attacco ad Afrin, perché ha ritirato le sue truppe appena prima dell'inizio dell'operazione Ramoscello d'Ulivo, così come anche avete sentito da Jacopo, sta ritirando le sue truppe dalla nuova zona sotto nel mirino dell'esercito turco. La manifestazione, abbiamo qua uno del, fra l'altro una persona, abbiamo qua, avete già sentito Olmo, è onnipresente praticamente, e comunque lui ha partecipato alla manifestazione di sabato, addirittura con i compagni di architettura avevano costruito un aggeggio fantastico che è diventato famoso, ci ha detto, vero? Abbiamo un microfono e funziona male. E sì, era stato da parte più che non solo di architettura, ma di tutta l'assemblea da Firenze ad Afrin, e quindi tutto il progetto, diciamo, aperto, che è nato dopo, prima e durante e dopo l'occupazione di architettura della due settimane fa. E abbiamo continuato, insomma, a tenere viva questa assemblea e a lavorare quindi per questo corteo. E tra le varie cose, tra le varie azioni che erano state pensate, è stato inventato questo risico gigante da consegnare alle nazioni imperialiste che incontravamo sul nostro percorso, in particolare a Stati Uniti e Russia. Quindi abbiamo costruito questo risico e abbiamo consegnato, appunto, una bandierina e le carte obiettivo alle rispettive nazioni, e quindi anche questo carro armato alla Russia, che insieme all'altro carro armato che era stato costruito al CPA e che è stato consegnato alla Germania, che vende carri armati alla Turchia, e sono diventati abbastanza famosi sulla stampa. La grande stampa vi ha reso famosi. Sì. Sì, appunto, dicevi, i consolati toccati sono stati quello americano, il primo, perché siamo partiti proprio da lì. Poi abbiamo toccato quello russo, poi quello tedesco. La partecipazione è stata buona, perché era un corteo piuttosto nutrito, tante bandiere anche per la causa palestinese. Stiamo osservando l'ennesimo esempio di violenza inaudita da parte dello Stato israeliano nei confronti del popolo palestinese, tra l'altro, che pacificamente sta manifestando, e vediamo benissimo che quando si parla di manifestazioni pacifiche Israele non sa far altro che rispondere con i cecchini, con le armi, con i razzi. Questo è piccola parentesi, torniamo alla giornata di sabato. Abbiamo avuto una partecipazione piuttosto nutrita, anche persone che vengono da fuori, compagni pisani che molto attivi per la causa curda. Abbiamo visto addirittura un'occupazione della Torre di Pisa qualche settimana fa. Addirittura abbiamo avuto il piacere per noi, per loro non tanto, di intervistare ai microfoni di Radio Wombat durante il collegamento un compagno perugino che ha avuto, insieme ad altri compagni, dei problemi piuttosto grossi con la giustizia italiana, proprio per una manifestazione di dissenso nei confronti delle politiche turche. Tutto questo sembra un po' paradossale, perché tutto questo durante una partita di pallavolo. Partita di pallavolo che c'è stata una decina di giorni fa a Perugia, era una partita di Champions League tra la squadra di Perugia di pallavolo e la squadra di Ankara. Quindi loro hanno pensato bene di fare, non chissà che, hanno semplicemente esposto uno striscione sugli spalti con su scritto quello che viene scritto giustamente sugli striscioni, cioè Erdogan assassino, e la Digos li ha immediatamente accerchiati, gli ha strappato lo striscione, l'hanno esposto per una cosa come 5 secondi. Finita qua? No, perché queste persone si sono beccate in tutto 9 anni di DASPO. 9 anni di DASPO per istigazione alla violenza, addirittura. Le hanno praticamente acchiappati, l'hanno portati via, identificati, e immediatamente, senza alcun appello, gli hanno dato tendenzialmente un anno di DASPO a testa. Una persona ne ha preso anche di più, un anno e mezzo. Quindi, come cosa si può dire per denunciare queste violenze nei confronti di chi semplicemente esprime il proprio dissenso? Ci stupiscono? Probabilmente no, non ci stupiscono, perché sono cose che più o meno stanno succedendo quasi all'ordine del giorno, e anche perché chi collabora con il governo turco sono in tanti a collaborare col governo turco. L'abbiamo visto Erdogan ricevuto dalle massime cariche dello Stato italiano circa un paio di mesi fa, abbiamo visto il Papa che accoglie Erdogan, e abbiamo parlato poco fa con Olmo della Germania che vende le armi a allo Stato turco, i tank, i carri armati e anche razzi e via discorrendo non sono gli unici, perché anche noi a casa nostra produciamo e vendiamo armi a questo genere di dittatori, in particolare perché l'azienda Leonardo Finmeccanica produce che è un'azienda che ad alta tecnologia, attiva nel settore dell'aerospaziale, della difesa e della sicurezza, vende armi anche alla Turchia. Naturalmente bisogna dire che uno dei maggiori, il suo maggiore azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, che possiede una quota di circa il 30%, e quindi per questo non può essere assolutamente esentato dalle proteste e dalle sanzioni che puntualmente arrivano anche da loro, perché giusto qualche giorno fa nella sede di Mestre, vi sono entrati, no, qualche giorno fa, in verità ieri, sono entrate degli attivisti e hanno sanzionato la sede di Finmeccanica con scritte macchiando l'ingresso con della vernice rossa, che sta proprio a rappresentare il sangue che il popolo curdo sta versando nelle loro terre. Sì, ci sono state svariate manifestazioni di questo tipo nei confronti di Finmeccanica. Negli ultimi tempi si è andata a inasprire soprattutto dall'inizio del conflitto ad Afrin. La prima è stata a Torino, dove vengono progettati appunto la parte tecnologica avionica. E lì è stato incendiato un caccia che era ovviamente non funzionante, però era esposto come simbolo all'entrata ed è stato incendiato. Sono state fatte diverse altre azioni anche qui appunto a Firenze. Abbiamo una parte della Leonardo che sta a Campi Bisenzio, e su cui appunto ci sono incontri e lavoro appunto al K100, e qui sono state fatte diverse azioni di vario tipo, cercando appunto di far capire alle persone che in realtà la guerra di cui si parla in televisione è dietro casa, perché i droni di sorveglianza che sorvolavano Afrin e che identificavano le YPG e le YPG per poi appunto prendere la mira e poterli bombardare, erano prodotti sono droni italiani prodotti proprio qui a Campi. Quindi tutta la retorica sulla guerra e su tutte queste cose finisce nel momento in cui scopri che siamo complici. Dietro tutto c'è questo, e quindi è importante mobilitarsi, e questa è stata una delle questioni più anche centrali in Italia, forse, rispetto al ruolo dell'Italia in questo conflitto. E tant'è che questo venerdì ci dovrebbe essere un incontro, dovrebbe esserci Profumo a Firenze, che sappiamo appunto è l'amministratore di Finmeccanica, e si prevede insomma Una calda accoglienza. Esatto, sì, quello che noi vi suggeriamo è sicuramente non è possibile boicottare Finmeccanica, in quanto nessuno di noi compra bombe o aerei da guerra, però ci sono tante altre aziende che sono invece complici e che fanno affari con regimi molto lontani dal concetto di democrazia, perlomeno di democrazia che abbiamo noi. Quindi noi sicuramente possiamo invitarvi al boicottaggio di tali aziende, quali Pirelli, Barilla, Ferrero, Castaldi, e Unicredit e tante altre. Quindi non ci scordiamo che le azioni che possiamo intraprendere sono svariate. Quindi state allerta, noi continueremo a tenervi aggiornati sulla questione. Abbiamo un'ultima cosa da dirvi. Sulla questione aggiornamenti è importante sapere che è stato appunto, queste sono notizie che ormai arrivano tutti i giorni, però sono state bloccate la settimana scorsa dopo le mobilitazioni del 24 le pagine anche del coordinamento Toscano-Kurdistan, come della rete Kurdistan Italia, per cui Facebook ha applicato la regola per cui, essendo il PKK considerato un gruppo terroristico, sono state bloccate le pagine. Qui ci sono stati anche problemi nel poter diffondere informazioni sulla manifestazione, quindi comunque altre pagine sono attive, ci sono sempre... Altre pagine, sì, ci sono corrispondenti, appunto, un po' quelle che seguiamo noi, le nostre radio compagne di Radio Onda Rossa, di Radio Blackout, di Radio Onda d'Urto, potete seguire InfoOut che dà notizie piuttosto aggiornate. Questa cosa va detta, che la grande informazione sta completamente ignorando questa questione. Non è nuova, ma purtroppo dobbiamo dirlo ancora. Sì, è stato condotta anche un'azione sotto il Corriere Fiorentino, appunto per ricordare e ribadire questa, l'importanza dell'informazione in tutto ciò, e insomma a breve termine, per avere informazioni nel caso di mobilitazioni, comunque ci sono le pagine del CPA, da cui viene rimbalzato insomma quello che è il contenuto del coordinamento toscano, quella di da Firenze ad Afrin e di tutti gli altri diciamo collettivi che si occupano della cosa. E domani sera al Circolo al Campino ci sarà di nuovo l'assemblea cittadina per coordinarsi insomma sulle azioni in difesa del confederalismo. Alle ore? Alle ore 19, se non sbaglio. Alle ore 19 non puntuali, dalla faccia che... Va bene, quindi noi andiamo avanti, alleggeriamo un pochino questa puntata, visto che abbiamo parlato fino ad ora di violenze. Cosa facciamo, regista? Mandiamo un po' di musica con Grippo? Prima un pezzaccio, ci dicono. E allora, pezzaccio. Wombat! Quella! Allora, Embe? Come state, Wombat? Tutto bene. Bene, bene, bene. Che si fa? Si va con il disco grippo? Siamo curiosi. No, eravate lì a dormire, non lo so. Se no, se volete si mette un 20 minuti di silenzio. Con attenzione, grippo, non è che inizia. Allora, chi ci parli oggi? Chi facciamo che... Allora, diamo un po' di indizi. Vai. Allora, io di questo gruppo qua avevo portato pezzi a fuoco alle polveri tutto l'anno scorso. Credo di averle portate dietro in chiavetta per tutto l'anno, ma sono stati sempre censurati dalla regia che c'era l'anno scorso. E quindi ah, questo sì, eh? È un po' un dispettino al buon lapo, mi sa. Allora, dacci qualche indizio. Aspetta, allora, un altro indizio è che ieri era il compleanno del mio amico Eugenio. Ok, che certo. Salutiamo, ciao Eugenio. Ciao Eugenio. Ciao mamma anche. Ciao mamma. E... ciao Margherita anche, ci ascolta da Berlino. Sì. Va bene. E niente, era il compleanno suo, gli ho detto: dimmi che disco vorresti sentire a fuoco alle polveri. E lui mi ha indicato il disco. Quindi boh, abbiamo dato un po' di indizi. Forse i vicinissimi di già stanno... No, secondo me non ha capito un cavolo nessuno. Venditti. No. Lo faccio partire, tanto li conosci anche te tu, io lo so. E lo faccio partire e festa e non se ne parla più. Va bene. Io, il pezzo, uno dei pezzi l'ho scelto all'interno del disco perché è abbastanza rappresentativo del gruppo che è stato al primo disco e che sarà negli altri dischi dopo. Ma insomma, lo diremo. Ma chi, vai. Via. Blu Vertigo. Bravo. Sì. Mi piacciono i luoghi poco frequentati, le strade senza uscita, le discese rapidissime, le imprese senza fine. Mi piacciono i lampi nelle notti scure, la paura del soprannaturale, partire alla ricerca di un tesoro che forse non esiste. Amo la glacialità della musica tonale e un modo in cui non è capita, forse neppure da me. Che bello quando nei film vedi stravolti i valori della retorica hollywoodiana e il pezzo come spento vedi almeno 7 minuti della tua vita bruciati. Bruciati. Bruciati. Bruciati. Bruciati. È affascinante il modo in cui la televisione abbia bisogno di grandi miti, superuomini eccezionali, e come Bono Vox si presti ad assumere questo ruolo ironicamente, senza smontanarsi, diventando un miliardario. Vorrei che invecchiassero gli specchi anziché io. Siamo ancora in una grande eva, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere, di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra, anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. Apprezziamo chi invecchia dignitosamente, consapevole della sua curva discendente. Velocissime comunicazioni, virtualissime clonazioni. Ridley Scott ha avuto grandi intuizioni. Troppi replicanti in televisione. Siamo ancora in una grande era. Siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere, di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra, Anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. Godiamoci una decade di decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Così? Io vi faccio partire anche un attimino un altro pezzo abbastanza centrale dell'album. Ve lo faccio partire subito, ci sentiamo il primo minutino e mezzo, due, e perché boh. Esemplificativi, l'uno e quell'altro pezzi, okay, diciamo, dello stile dei Blue Vertigo. Questo è I Still Love You. D'essere pronto ad affrontare una ragazza quando la mia invidia nei confronti di altri diventava ormai una cosa insopportabile. Era stato naturale, poi neanche difficilissimo inserirmi in un contesto di rapporti e sentimenti ovvi per il mio essere un adolescente. Sono rimaste poche cose e ho molti meno amici. Qualcosa mi è nuovo, è la paura di essere solo. E il mio amore dov'è? Chi c'è al posto mio? Siamo e ce la lasciamo di sottofondo, poi ve la andrete ad ascoltare se vi garba. Eccetto. Eccetto. 1995, Acidi e Basi si intitola questo lavoro, il primo lavoro dei Blue Vertigo, band del pluricriticato e pluricriticabile anche volendo, però geniale nel suo esordio e nella sua parte iniziale di carriera, Marco Castoldi, in arte Morgan. Chiederete perché Morgan? Captain Morgan per Sir Henry Morgan, il famoso pirata del 1600, e classe 72, nato a Milano, e se ne vive nella provincia di Monza e Brianza, a Muggiò. Si vive i primi 14 anni della sua vita. A 6 anni inizia a suonare la chitarra, ma poiché era un mancino maledetto, si è poi subito dopo indirizzato verso il pianoforte. A anni 12 richiede, anzi 11, si appassiona ai gruppi del movimento, i cosiddetti New Romantics, che sono i Duran Duran, gli Spandau Ballet, questo genere musicale in voga in quel periodo, la metà degli anni 80, ispirati un po' post Bowie, diciamo, però con musica orecchiabile e testi tendenzialmente malinconici barra introspettivi, come a questa I Still Love You che sentiamo qua sotto, che è una canzone di amore adolescenziale, a mio avviso molto toccante. Vuole un synth per forza. Cosa succede? Il babbo gli strappa la promessa di iscriversi al conservatorio a piano classico. Si iscrive a piano classico, il piccolo Morgan, e a 12 anni riceve il suo primo synth, che era un Korg Poly 800. Ha avuto un'infanzia, cioè un'adolescenza abbastanza travagliata. Nell'88, quando aveva 16 anni, suo padre si è suicidato, e in seguito a questo suicidio, che lui ha vissuto sì, vabbè, male la regia, però ha vissuto proprio in prima persona, è stato l'unico, dice, della famiglia ad andare a vedere il padre morto. Lui si è tatuato un punto interrogativo grosso sul braccio, che ricorrerà nella simbologia dei Blue Vertigo. Poi sarà il primo simbolo dei Blue Vertigo, un triangolo rovesciato, che il triangolo è la perfezione, no? Dio, cose del genere. Il punto interrogativo messo nel mezzo sta a significare lo scetticismo nei confronti della perfezione. È un tatuaggio che ha anche Andy, che è l'altro, il secondo frontman, diciamo, certo, di Blue Vertigo, con cui inizierà a collaborare Morgan intorno ai 16-17 anni. Grande sodalizio artistico tra i due. Facciamo un salto, arriviamo nel 94, si sono uniti altri componenti, tra cui Marco Pancaldi, che ha dato tanto in termini di chitarre a questo primo lavoro, poi sostituito da Livio Magnini. Però insomma ci sono queste chitarre particolari, molto, molto alla The Edge degli U2, e schitarrate pazze, un po', non so, un po' Police come influenze in questo disco. E poi anche Sergio Carnevale, che è il metronomone dei Blue Vertigo, il batterista pazzesco. E questi sono i Blue Vertigo. Andy, nati dal sodalizio, esatto, tra Andy, lui suona di tutto, e Marco Castoldi. Andy suona di tutto e fa un po' di tutto, un tastierista, cantante, col vocoder, fa tutte quelle vocine strane che si sentono nei dischi dei Blue Vertigo, suona il sax da Dio, synth, e poi anche, tra le altre cose, pattinatore artistico, ma... anche, è stato anche istruttore, DJ, e poi anche pittore ultimamente. Beh, sta facendo. E nel 94 esce Iodio, la conosciutissima Iodio, che metterò qua in sottofondo perché mi è partito un altro pezzo che volevo far partire dopo, in realtà. Scusate l'errore, lo metterò qua in sottofondo. Partecipano a Sanremo Giovani, arrivano terzi e quindi non si aggiudicano la partecipazione al successivo Sanremo. Però insomma, fatto sta che nel 95 esce questo Acidi e Basi, disco pazzesco, che si compone di 10 pezzi, e caratterizzato appunto da questo basso fancheggiante, predominante, incisivo e egocentrico, anche volendo, che è di Morgan, che ha una tecnica particolare nel suonare il basso, perché è un mancinaccio maledetto, l'avevamo detto, e lui ha semplicemente girato il basso senza girare le corde, e quindi ha studiato tutte le posizioni. Pazzesco. Sì, te suonavi il basso, amico mio. Esatto. Deve essere abbastanza un trip, però insomma è tra gli elementi caratterizzanti, caratteristici del sound di Morgan e del sound dei Blue Vertigo. Testi, hanno 22-23 anni Morgan e Andy quando scrivono Acidi e Basi. I testi sono tutti di Marco Castoldi, Morgan, e spaziano, diciamo, vari argomenti, ma principalmente insomma sono testi di disagio. Abbiamo dei testi, sì, di rabbia e di critica sociale di critica all'ipocrisia, in particolare religiosa e del denaro. Cioè abbiamo in apertura l'eretico e in chiusura il dio denaro. Dopo vorrei passare uno di questi due e potete anche sceglierlo, va, quasi quasi. L'eretico, poi siamo anche dopo Pasqua. L'eretico è bella rabbiosa, secondo me ci può stare. Però il dio denaro è il dio denaro. Poi passare il dio denaro adesso che Morgan è marcissimo a fare gli show televisivi, amici, X Factor, X Fatto e tutta questa roba qua, insomma, nel senso, ci starebbe a bestia. Vabbè, dopodiché si continua con Iodio, canzone, anche questa, insomma, la sentite qua sotto, la conoscerete, a favore dell'odio, insomma, dell'ipocrisia, dell'amore sempre e comunque. I Still Love You, che abbiamo sentito all'inizio, toccante, struggente. Poi andiamo con, e qui si spazia sempre tra funk, post-punk, hard rock, accordi dissonanti, strutture strane, un disco molto strano. Abbiamo LSD, La sua dimensione, bella psichedelica. Vivo su una mela, anche quella bella, bella arrabbiata e di rifiuto di adeguarsi agli altri, contro ogni conformismo. Anche quella sarebbe stata molto caratteristica, da mandare come esempio tipico di canzone da Blue Vertigo. Complicità, che è una cover dei Depeche Mode, una traduzione dei Depeche Mode di Here is the House, un'altra ballad d'amore insieme a I Still Love You, che avevamo detto prima. Salva l'uomo, anche quella molto adolescenziale, di un Morgan tra i banchi di scuola, imbrigliato tra professori e compagni manzoniani, e poi abbiamo Storia medievale, anche quella un pezzaccio pazzesco. Abbiamo moltissimi temi. Come è funzionata poi la carriera dei Blue Vertigo? Hanno fatto la cosiddetta trilogia chimica, nel 95 Acidi e Basi, nel 97 Metallo non metallo, nel 99 Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, si intitola così. Ok. Fondamentalmente sono questi tre i dischi, perché poi c'è Pop Tools che riprende tanti pezzi vecchi, aggiungendo tipo l'Assenzi e un altro paio di pezzi. E dopodiché si sono sostanzialmente sciolti con vari ritorni. Cosa ci possiamo aspettare dai Blue Vertigo del domani? Poco, perché a quanto sembra sono molto incavolati tra di loro, e tanto che Andy ha fatto uscire un post su Facebook tempo fa, con un punto interrogativo, un grande simbolo di Blue Vertigo, con un punto esclamativo messi tipo a falce e martello, con scritto Blue Vertigo Electro Set Coming Soon. E invece Morgan ha smentito tutto, ha detto non è vero un cavolo, continuiamo come fanno i grandi gruppi, cioè una volta dopo essersi sciolti bisogna continuare ognuno con il suo nome. Boh, insomma, non sappiamo, però apprezziamo però quello che è stato fatto. Decisamente. Passiamo o il primo o l'ultimo pezzo adesso, e chiudiamo questo disco di quella settimana, Acidi e Basi del 1995, Blue Vertigo. Che si fa? Il dio denaro o la rabbiosa l'eretico? Quella più adolescenziale. Più adolescenziale? Più adolescenziale. Più incazzata. Prima. Più incazzata allora l'eretico. Vai, andiamo di eretico. Andiamo di eretico. Seme del peccato, Cristo voi non appartiene a lui, era troppo santo quella notte tra di voi, con i chiodi in mano c'ero anch'io, e allora basta, con giovani porci, rossi in pancia, né in testa, ricchi in tasca, basta, con giovani porci, rossi in pancia, né in testa, sporchi, basta. E poi mi dicono che sono l'eretico, poi mi dicono che sono l'eretico. Io, l'epicureo. Che sono l'eretico, io, l'epicureo. E poi mi dicono che sono l'eretico, io, l'epicureo. Poi mi dicono che sono l'eretico, io, l'epicureo. Loro mi dicono che sono l'eretico, io, l'epicureo. Poi mi dicono che sono l'eretico, io, l'epicureo. Loro mi dicono che sono l'eretico, io. Eccoci. E eccoci qua dopo l'eretico. Dopo l'eretico, sì, esatto. Io avrei mandato forse il Dio Denaro, però ve l'ho fatta scegliere, sono stato contento. Allora, o ti imponi o non ti imponi. Andate a sentirvi il Dio Denaro se vi sono garbati. Sentitevi tutto il disco, dai. Sì, sì, dai. Acidi e Basi, secondo me, un'oretta spesa bene. 40 minuti spesi bene, insomma. Io consiglio grande. Anche, è praticamente ovvio che sì, piace tantissimo. Altre forme di vita. Altre forme di vita. Mi pare sia di quello dopo, di... Zesco. Metallo non metallo. E poi anche Zero comunque era bello. La trilogia della Fondazione va ascoltata, anche se Morgan adesso, insomma, vabbè, è quello che è. Non vi fate spaventare, perché hai 22 anni. Era bravino. No, c'era della roba pazzesca davvero. Nulla. Come si va? Alla grande. Siete in forma? Siete assolutamente carichi? Ti ringraziamo come sempre. Vabbè, grazie a voi, grazie a tutti. Finalmente hai potuto parlare del Blu Vertigo. Wombat Wombat. Wombat, sì. Wombat. No, no, bene, insomma. E niente, allora ti lasciamo un attimo, lasciamo un po' il Blu Vertigo un attimo per finire le ultime cose, no? Oggi abbiamo raccontato un sacco di... Tantissime cose. E però abbiamo altri aggiornamenti da fare, in particolar modo dalla Francia, se non sbaglio, no? Sì, in particolar modo diciamo dagli spazi liberati. Non solo francesi, iniziamo dalla Francia, perché da stamattina alle 3 di mattina la gendarmeria francese ha attaccato con forze la ZAD, Zona de Fendre di Notre Dame de Lund. Non ti preoccupare, io sbaglio sempre le... Comunque, mi prendono in giro da un anno. De Land, esatto. Comunque, di cosa si tratta? Si tratta di un appezzamento di terra piuttosto grosso, situato pochi chilometri a nord di Nantes, dove nel 2009, circa una decina d'anni fa, il governo francese aveva annunciato la costruzione di un immenso aeroporto, un super mega ultra aeroporto, iniziando fra l'altro a sgomberare contadini e allevatori che erano presenti sul luogo. Ma giustamente, però, cosa non è successo? Ci sono stati loro. Allora, non c'è stata una grossa mobilitazione, perché a sostegno dei contadini sono arrivati tantissimi attivisti, tant'è vero che è nata una zona praticamente autogestita dove viene sperimentata agricoltura e progetti sociali. Le tentativi di sgombero sono innumerevoli, vi sono stati già negli anni passati, nel 2012, e diciamo il capitolo conclusivo è stato il 17 di gennaio di questo anno qua, quando il governo francese ha abbandonato il progetto della costruzione dell'aeroporto in quanto troppo ingombrante, troppo aggressivo nei confronti dell'ambiente, impatto ambientale e della sostenibilità. Quindi ha abbandonato il progetto. Gli attivisti non hanno avuto un attimo di sollievo, perché fondamentalmente il governo ha detto: sì, va bene, noi non ci facciamo l'aeroporto, però vogliamo riportare la legalità nella zona. E quindi stamattina alle... Quindi ha detto: carri armati, andate. Esatto, carri armati. Ci sono 2500 uomini schierati da ieri intorno alla zona, con tank, con mezzi blindati, non sono proprio tank, ma sono mezzi da guerra. Di fatto hanno assaltato il tutto stamattina. Naturalmente gli attivisti si erano preparati, avevano già costruito barricate che sono state incendiate, hanno risposto con forza a questo attacco. Però purtroppo dobbiamo anche segnalare l'ingresso della gendarmeria all'interno della ZAD e anche la demolizione di alcune strutture, di circa loro, Le Monde dice, di circa 6 fabbricati, perché diciamo quando vi si sono insediati tutta questa gli attivisti poi hanno sia occupato abitazioni già esistenti, sia ne hanno costruite delle altre. Quindi sì, infatti ci sono degli edifici stranissimi. Esatto, no? Sì, ci sono degli edifici stranissimi, ma cioè, c'è un forno, c'era un grandissimo tendone dove si svolgevano le assemblee della comunità, che è stato distrutto pochi minuti fa dai bulldozer del governo. Quindi questo è quello che sta succedendo in Francia. Ora non ci sono aggiornamenti più recenti, gli ultimi risalgono a circa mezzogiorno di oggi, però la situazione non sembra assolutamente che vada per il meglio. Torniamo agli spazi liberati nostrani, in primis a Pisa, perché a Pisa dobbiamo constatare che l'amministrazione pisana si comporta all'incirca nello stesso modo dell'amministrazione fiorentina. Infatti lo scorso giovedì 5 aprile si sono presentati 3 macchine dei carabinieri più i funzionari dell'APES, che è l'azienda pisana per l'edilizia sociale. Si sono presentati in via Sirtori nel villaggio della casa popolare di Sant'Ermete, che c'è una storia particolare, c'è una storia particolare dietro a tutte queste a questo villaggio di case popolari, perché queste sono praticamente in stato di abbandono. Addirittura le amministrazioni, l'APES, lo dichiara non a norma, ed infatti appunto giovedì sono arrivati a sgomberare una casa proprio perché loro dicono di non a norma, e quindi non hanno di fatto effettuato uno sfratto, ma un sequestro dell'abitazione. Naturalmente, gli occupanti non erano molto d'accordo, ma non solo gli occupanti, perché di fatto tutto il quartiere si è mobilitato respingendo lo sgombero. Perché in tutto questo l'amministrazione dichiara da tempo che non è a norma, insomma, tutto il complesso delle case popolari, ma parallelamente riscuote l'affitto da circa una quarantina di appartamenti dichiarati non a norma, tant'è vero che gli abitanti dicono: bene, sì, non sono a norma, allora non ci fate pagare l'affitto, niente, addirittura li mandano, vengono sgomberati. Non ci sono riusciti, per fortuna era una famiglia già in grosse difficoltà, con fra l'altro diversi minori all'interno del nucleo familiare, una famiglia che era già stata spostata in quanto dichiarata insomma, non gli avevano permesso di vivere nelle roulotte, in roulotte, quindi li hanno spostati, dice, da un parcheggio a un altro per diverso tempo. Infine loro avevano deciso di occupare un appartamento in via di Sant'Ermete, in Sant'Ermete, e poi appunto giovedì abbiamo visto quello che è successo. Si è svolta un'assemblea a Pisa e domenica proprio in piazza Sant'Ermete per l'organizzazione delle proteste della resistenza, nuovi sgomberi, e naturalmente per ottenere le case per tutte le famiglie che ne hanno bisogno. Quindi vediamo che l'emergenza abitativa viene affrontata all'incirca nello stesso modo pure in territorio pisano. E proprio riguardo a questo avremo un piccolo aggiornamento da darvi, anche se probabilmente lo potremo dare con più precisione in futuro, ma qualche giorno fa abbiamo avuto il piacere di incontrare Giuseppe, l'inquilino di Via dei Pepi, che abbiamo sentito a questi microfoni qualche tempo fa in occasione della sentenza del TAR che non permette al comune di vendere quegli appartamenti in quanto essi sono edilizia popolare. Quindi l'abbiamo incontrato, abbiamo sentito un po' come andava, e lui è ancora in Via dei Pepi, è da solo, di fatto quegli appartamenti non sono stati ripopolati, ma non solo, il comune di Firenze addirittura ha fatto ricorso al Consiglio di Stato in merito alla decisione del TAR. Quindi la situazione è tutt'altro che finita. Vi terremo aggiornati, sperando di averlo qua ai nostri microfoni nuovamente per ulteriori aggiornamenti. Caro Tuco, la situazione, cioè, raccontiamo cose un po' pesanti. It's the end of the world, dicono i REM. In effetti è un casino. Di notizie da dare ce ne sarebbero tantissime, anche poi riprendendo tutto il filone antifascista che noi portiamo avanti tutti i giorni, ma che abbiamo portato poi avanti in particolar modo nell'ultimo periodo, perché stanno succedendo sempre più cose, appunto, sempre per tornare dalle Alpi in Francia, ci sono stati ben due attacchi alle università francesi occupate, non solo, anche altri da parte di movimenti neofascisti legati al Front National, l'ultimo all'università di Parigi, che era in quel momento occupata. Ma ci sono notizie sconcertanti da tutte le parti. Si è visto in Ungheria ha vinto l'estrema destra Orban, sì, olè, con la maggioranza assoluta, fra l'altro, ma non solo, perché ho visto che il secondo partito è l'ultradestra, la esattamente sinistra è relegata a una misera percentuale. Quindi loro che già hanno alzato i muri, chissà cosa faranno adesso. E quindi l'Europa, la tanto amata Europa, è decantata, sta sempre si più sta sprofondando, si sta, sì, sgretolando, sì. Sostiene attraverso l'ONU appunto l'invasione di territori gratuitamente, e lascia appunto il fascismo e la destra dilagare, sì, sa dove finiremo tranquillamente, vero. Tu, siamo un po' in dirittura d'arrivo noi, però io avrei un'ultima cosa da dire. Dai. Devo fare un annuncio, perché probabilmente l'avete già visto, l'avete già sentita questa cosa, però noi ve lo vogliamo ribadire, perché Genuino Clandestino fra due settimane circa farà l'assemblea nazionale, l'incontro nazionale, proprio vicino a casa nostra, quindi a Mondeggi. A Mondeggi vi è in programma il 27, 28 e 29 aprile questo incontro nazionale. Che cos'è Genuino Clandestino? Genuino Clandestino è una rete che nasce nel 2010 come una campagna di comunicazione per denunciare un insieme di norme ingiuste che, equiparando i cibi contadini trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, e rendendo questi fuori legge, quindi sono autoproduttori contadini che attraverso una rete utilizzano, diciamo, si organizzano e vendono i loro prodotti in mercati autogestiti. Naturalmente non si ferma tutto questo, c'è anche tutta la questione dell'autodeterminazione e tantissime altre cose che potrete seguire presso Mondeggi da venerdì 27 aprile. Vi leggo direttamente il programma, così potrete andare di fatto potrete venire perché il Wombat sarà presente. Comunque venerdì 27 aprile si inizia alle 10 con l'accoglienza, ci sarà poi un pranzo condiviso e dalle 16 alle 20 l'assemblea plenaria, poi la cena e poi continuano con l'assemblea plenaria, perché abbiamo scoperto che a Mondeggi sono veramente instancabili. Abbiamo scoperto l'altra volta quando siamo stati da loro. Sabato 28 aprile dalle 8.30 alle 12.30 ci saranno un sacco di tavoli tematici, ve ne cito alcuni, sul mutuo aiuto, sulla garanzia partecipata, libere trasformazioni, ecologia e autonomie, formazione, allevamento, pianificazione, orticoltura, olivicoltura e chi più ne ha. Chi più ne ha più ne metta. Il Wombat ci sarà presente con la diretta sia del venerdì che del sabato, della mattinata del sabato. Tutti questi tavoli cercheremo di trasmettere il più possibile, ma non riusciremo a dare tutto in diretta perché si svolgono contemporaneamente, quindi speriamo di riuscire a portarvi i contributi come podcast. Alle ore 17.30 il ritrovo in piazza San Marco, perché ci sarà un corteo per la difesa di Mondeggi contro la svendita dei beni comuni e l'autodeterminazione dei territori. Poi alle 20.30 la cena, e domenica sarà una grande giornata di festa e di mercato contadino. Comunque, per le informazioni della settimana rimanete qui collegati, perché fra poco ci sarà il rassegna eventi del Wombat. Vero. Veramente verrà poi secondi al termine di Fuoco alle Polveri, che giusto appunto è arrivato alla sua conclusione. Non perdetevi però poi alle 21 Cocco di Alzilicio. E niente, vi salutiamo, vi ringraziamo gli ospiti e chi ci ha concesso le interviste. E niente, Rudy, ci sentiamo lunedì prossimo alle 16.30 qui su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Viva il Wombat! Wombat! Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat. Radio Wombat. Hey, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi?